I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Per i dipendenti pubblici sta per aprirsi una fase destinata a ridisegnare il lavoro nella pubblica amministrazione. Ieri è stato avviato il confronto fra 13 confederazioni sindacali e l'ARAN, che è l'agenzia tecnica che rappresenta la pubblica amministrazione, e da questo confronto, da questo tavolo, è intervenuto anche il ministro Marianna Madia, verranno le indicazioni sia per il rinnovo dei contratti di lavoro che sono fermi da 7 anni, sia per il nuovo testo unico del pubblico impiego che dovrebbe arrivare a gennaio del prossimo anno. Tra le questioni sul tappeto, ieri si è discusso della necessità di rivedere i criteri del turnover nella pubblica amministrazione per garantire che le nuove assunzioni servano effettivamente per colmare le professionalità che servono alle amministrazioni. E poi è tornato il tema sempre attuale dei premi ai dipendenti, dove si è ribadito ancora una volta che non devono essere più distribuiti a pioggia. Vedremo se cambierà veramente qualche cosa. Sullo sfondo c'è il nodo delle risorse da destinare al rinnovo dei contratti. La dote disponibile attualmente è solo di 300 milioni per oltre 3 milioni e 200 mila lavoratori del pubblico impiego. Non a caso lo stesso ministro Madia ha spiegato che in autunno si valuterà, si cercherà di capire se ci sono maggiori risorse. Tema ovviamente molto caro ai sindacati, per i quali è positivo l'avvio del confronto sul rinnovo dei contratti, ma al tempo stesso denunciano che aumenti salariali di una manciata di euro al mese non sono cosa dignitosa dopo 7 anni di blocco. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. I risultati del semestre, ma soprattutto l'alleanza con Fastweb sulla fibra ottica e sullo sviluppo delle nuove reti, sono stati alla base del rimbalzo di quasi il 10% per Telecom Italia, l'operatore telefonico ex di Stato, che dopo tanti anni, si parla quasi di un decennio, ha rivisto un aumento a 2 cifre nel proprio titolo in borsa. Un segnale sicuramente positivo, visto che l'azienda, schiacciata dal debito e a corto di investimenti per tanti anni, sembra finalmente essersi rimessa in moto. Non soltanto grazie ai cambi di management, ma soprattutto grazie a una cura draconiana da parte dell'amministratore delegato Flavio Cattaneo, che insieme a Giuseppe Recchi hanno cominciato a rimettere ordine sia nelle controllate estere che soprattutto sugli affari di casa. Nuovi investimenti sulla rete, ma soprattutto sul core business, possibili sviluppi di alleanze strategiche anche con Mediaset guardando in futuro. Insomma, sono tanti appuntamenti che per il mercato finanziario, ma soprattutto per gli italiani, hanno un'importanza particolare. I primi perché sperano che il colosso delle telecomunicazioni possano continuare a riuscire utili e soprattutto dividendi. I secondi perché della fibra ottica, della banda larga e di una rete che funziona ne ha veramente bisogno l'Italia. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.